ha una situazione di, insomma, un semisvenimento. Sta di fatto che anche la Gazzetta titola Cassano, paura Milan, colto da un malore, parlava e vedeva male, ricoverato in neurologia a Milano. Ma le agenzie dicono che non è grave, pare stia meglio. Questo è il titolo d'apertura della Gazzetta. 24 mattino. Eccoci alle 8 e 21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, siamo da oggi, data simbolica, si capisce, 7 miliardi sulla Terra, come titola Il Giorno, il quotidiano nazionale, baby 7 miliardi. La data simbolica, l'ONU ha stabilito che il bimbo numero 7 miliardi nasce oggi. Forse è nato ieri, nasce oggi in India o forse è nato ieri nelle Filippine, non si sa, c'è anche questa disputa. Ma al di là di questa disputa che c'è ogni qualvolta si tocca una soglia simbolica, e insomma siamo in 7 miliardi e nel 2010 forse saremo 10 miliardi, secondo altre ipotesi saremo anche addirittura in 15 miliardi. E allora questa terra, questo nostro pianeta ce la farà? La tecnologia ci aiuterà con le nuove risorse, con lo sviluppo sostenibile a sostenere tutto questo, oppure siamo in troppi? Spesso si divide il mondo tra ottimisti o catastrofisti. Oppure qualcuno dice realisti, banalmente. In ogni caso vogliamo discutere di questi temi con voi, intanto 800 24 00 24, se volete, con due persone che abbiamo chiamato qui a confrontarsi. Intanto un grande ritorno, il nostro Oscar Giannino. Oscar, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Ai 7 miliardesimo. Saluto anche il professor Giovanni Sartori. Professore, buongiorno. Buongiorno, ma io non li saluto. Non li saluta. Lei già ci fa capire da che parte sta. Allora, il professor Sartori noi lo conosciamo e la conosciamo soprattutto come politologo, ma in realtà lei su questo tema si cimenta spesso e volentieri e anche con toni, cosa dire, professore, catastrofisti o realisti? Senta, le previsioni si dividono in vere o sbagliate. Se le azzecco, bravo, e se non le azzecco, sbagliate, sono un cretino. Dico, ma questa storia dei catastrofisti che incidono sulle piogge o sul numero delle nascite fa proprio ridere. Semmai, se uno è catastrofista, lo fa per dire: state attenti che questo sviluppo non sostenibile, il pianeta Terra non ce la fa a sostenere, alimentare, a far vivere 7 miliardi di poveracci, perché poi il grosso di questo aumento è in Africa o in paesi miserabili. Lei di recente ha scritto anche in un articolo: non c'è tecnologia che basti e che ci salvi, per esempio sulle previsioni dei 10 miliardi di viventi. È davvero così? Beh, quella è una previsione, l'ultima previsione dell'Agenzia delle Nazioni Unite. Sì, non c'è. Tra l'altro non è solo questione di tecnologia, dico l'acqua. L'acqua è o c'è o non c'è. Ora l'acqua serve per l'agricoltura, l'acqua per bere ce ne sarà probabilmente sempre abbastanza, ma l'acqua serve anche per l'agricoltura. Il grosso, il 70%, va in irrigazione simili, e quella non vedo che tecnologia la possa sostituire. Poi tutti i prodotti che usiamo sono tutti finiti, cioè alcuni finiranno fra 20 anni, altri fra 50, ma insomma finiranno tutti, perché non vedo la tecnologia che cosa può fare. Questo è già un primo tema, Oscar. Si può dare i pannelli solari. No, beh, infatti sul tema delle risorse energetiche è interessante, infatti Oscar Giannino su questo già... Bisogna anche mangiare, questo sì, però la tecnologia può servire anche per trovare per esempio un'agricoltura più intensiva. Allora Oscar... Se tutti si divertono a mangiare cactus, sarebbe una soluzione, perché sopravvivano, diventano 11 milioni. Non è male l'idea perdente senza fine. L'idea di mangiare cactus non è male. Oscar Giannino, allora, oggi il Messaggero titola 7 miliardi di abitanti, così la Terra esplode. Lo so, però cosa vogliamo fare? Cioè, sono abbastanza l'idea che il professor Sartori colga il segno quando dice che le previsioni si dividono in due grandi categorie, chi azzecca e chi no. Diciamo che fino a questo momento, fin dai tempi in cui il reverendo Malthus scrisse, ma fin da prima, da quando Swift quasi 300 anni fa scrisse la modesta proposta per fermare gli irlandesi facendogli mangiare i loro bambini perché non c'era alternativa, perché questa era la modesta proposta, e in realtà quelle previsioni si sono rivelate sbagliate. Non saranno sempre sbagliate, questo è il punto, cioè le previsioni di coloro che dicono c'è un limite fisico alle risorse del pianeta Terra e un limite, per quanto ancora non lo abbiamo toccato, ma un limite asintotico alla nostra capacità con le tecnologie e le innovazioni di moltiplicare le risorse, non che esistono, perché quelle sono finite per definizione, ma la nostra capacità di saperne fare un uso plurimo, superiore a quello che eravamo in grado di immaginare, non solo di conoscere nel tempo precedente. È ovvio che anche questa seconda cosa è una cosa che ha dei limiti, per quanto asintotici. Fino a questo momento noi abbiamo sperimentato che i vaticini di coloro che dicevano il carbone finirà, il petrolio finirà, eccetera eccetera, per rimanere a fonti energetiche, è chiaro che un giorno finirà, ma nel frattempo siamo diventati molto più abili nelle prospezioni, nuove risorse. Allora la questione per me non è tanto quella del dire poniamo un freno a mano alzato su tutti coloro che fanno più figli. A parte il fatto che tra me e il professor Sartori facciamo una discreta età, insomma, di Matusalemme, i figli non ne abbiamo, quindi o siamo stati anticipatori nel nostro pessimismo, oppure non so quanto titolo abbiamo per parlare. Ma detto questo, abbiamo il titolo dell'intelligenza, e nel titolo dell'intelligenza la questione è che noi, per esempio, negli ultimi 15-20 anni, da che il motore della crescita mondiale è diventato un commercio mondiale espanso per la prima volta davvero in queste proporzioni al mondo intero, o quasi, tranne l'area subsahariana dell'Africa, e abbiamo ottenuto l'effetto di aver strappato dall'economia di pura sussistenza, cioè dal rischio di morte per fame, più centinaia di milioni di abitanti che in tutta la storia della modernità precedente. Allora si dice, sì, ma adesso che il loro tasso di crescita è destinato ad accrescersi ulteriormente, appunto, e quindi il loro livello di consumi, di attesa di beni, di servizi, avrà raggiunto sempre elevato, diventerà meno lontano dal nostro, più vicino al nostro, in parole povere, cioè, noi eravamo nel 2007 in un mondo in cui il totale dei paesi avanzati faceva il 72% del PIL del pianeta, il 27-28% del resto del mondo. Con questo tasso attuale noi andiamo a un 2030 in cui i paesi avanzati sono il 52-51% e il resto, quasi la metà, sono tutto il resto del mondo. È un fortissimo riequilibrio. La domanda oggi è preoccupato chi, come il professor Sartori, dice rispetto a prima c'è una velocità di consumo e una crescita del valore aggiunto, cioè di tutto quello che serve per crescere il valore aggiunto nel soddisfare questa sete di consumi, che sarà anche questa senza precedenti. Aiuto. Io devo dire la verità, sono abbastanza... Non sei sull'aiuto aiuto. Io sono ragionevolmente ancora confidente. Dico anche che fino a questo momento le politiche di contenimento della demografia, quelle che vuole il professor Sartori, di solito sono state seguite dai paesi cui i sistemi non sono certo compatibili con il nostro. Ma al di là delle proiezioni demografiche, da qui ripartiremo dopo la pubblicità, c'è questo tema, la questione dei consumi, perché come il professor Sartori appunto scriveva recentemente in un editoriale sul Corriere della Sera, molto banalmente, chi non aveva l'energia elettrica ora vuole l'energia elettrica, chi mangiava riso ora vorrebbe mangiare carne, come è legittimo, ma l'aspirazione di tutte le persone che uno toglie da quella situazione di, allora si diceva, povertà, e quindi crescendo vogliono ambire ad aspirazioni più vicine ai nostri stili di consumo, e questo crea ovviamente delle problematiche anche da affrontare. 24 mattino. Eccoci allora alle 8:34 minuti, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta su questo tema. Siamo 7 miliardi, ci interroghiamo sul futuro del pianeta Terra e sul nostro futuro. Professor Sartori, le voglio fare un assist, come si dice in gergo calcistico, perché un ascoltatore ci scrive al 349-238-6666 i nostri messaggi a dire: su questo argomento l'atteggiamento della Chiesa secondo me è a dir poco irresponsabile. Cosa ne pensate? Beh, il professor Sartori ne ha scritto. Lei cosa ne pensa, professore? Ma io, dal mio volume, il volume che citava e che raccoglie i miei scritti, diciamo, ecologici, ho un appendice sulla dottrina della Chiesa, dell'embrione, di quando comincia la vita. Secondo me la Chiesa sbaglia assolutamente, sbaglia e può sbagliare in materia, ma non, il Papa non parla e scatta, quindi l'errore è ammesso, e sbaglia perché non, intanto non ci dice che cos'è vita umana, perché non è che la Chiesa dice tutte le vite, anche le zanzare non bisogna ammazzarle perché sono vita anche loro. Allora io da anni chiedo, datemi una definizione qualsiasi di vita umana e si dimostrerà che nell'embrione di mezzo millimetro che ancora non si sistema nervoso non c'è vita umana, c'è vita ma non c'è vita umana, che poi è la tesi di San Tommaso della teologia cattolica. Quindi chi si interessa a questo troverà una discussione di una quarantina di pagine. Ma perché secondo lei, in che cosa la Chiesa sbaglia? Perché toccare il tema sovrappopolazione, soprattutto nei paesi cattolici, per lei è un tema, come dire... sbaglia perché la popolazione cresce tra i miserabili. In Italia non cresce nonostante, perché nei paesi opulenti questa è la... i bambini costano, cioè su un bambino lo deve vestire bene, lo deve mandare a scuola, insomma i bambini costano, quindi la gente si frena perché non può affrontare poi più di tanto di spese. Nei paesi miserabili i bambini non costano quasi niente, si buttano sulla strada più o meno nudi e si arrangiano. E la previsione, per esempio, terrorizzante, talmente terrorizzante che non ci credo, è che il Nigeria potrebbe arrivare a fine secolo a 800 milioni di abitanti, cioè una cosa, non ci arrivano perché 500 milioni muoiono per strada. Voglio dire, sono previsioni allucinanti. Cosa dovrebbe fare la Chiesa secondo lei? Dovrebbe consentire la propaganda anticoncezionale che combatte ferocemente, perché in Africa ci sono soprattutto le missioni, sono missioni cattoliche, le missioni ospedaliere eccetera eccetera, e poi la Chiesa ostacola questa propaganda o anche la cognizione dei metodi anticoncezionali alle Nazioni Unite, in America Latina, e quindi il paradosso è che la Chiesa non riesce a convincere gli italiani a fare più figli, perché torna a dire gli italiani dicono i bambini costano e invece in Africa va una ruota libera e la previsione, ripeto, è addirittura per il Niger, che è un grosso paese, ma insomma solo il petrolio alla foce e poco più. È 800 milioni di abitanti. Certo, la Nigeria è uno di quei paesi a rischio. Oscar, prima di volerti sfruculiare un po' sul tema diseguaglianza anche dell'utilizzo delle risorse, vuoi sul tema Chiesa cattolica, visto che siamo un paese dove la Chiesa cattolica è fortemente presente, come dice il professor Sartori, cimentarti su questo, insomma, sulle colpe della Chiesa, dice il professor Sartori. Ma no, a me non è un tema che è passato, perché io sono convinto che le grandi derive dei paesi che hanno un bilancio demografico in negativo, come noi, che siamo in generale come continente europeo, tranne la Francia, che è un pochino tornata sopra il tasso di sussistenza che è superiore a 2,1 figli per donna in età feconda, noi siamo scesi a 1,4 addirittura in Italia, e la componente che ci trascina un po' più su verso 1,7 è esclusivamente quella degli immigrati. Ma detto questo, secondo me non dipende tanto ormai dall'adesione più o meno estesa al messaggio di etica sessuale della Chiesa, dipende appunto da fenomeni come la secolarizzazione a livello di reddito, ma il problema è che le società che si frenano nel tasso della soluzione demografica e si danno quindi un futuro di vecchi sempre meno efficienti dal punto di vista economico e sempre più ovviamente anche onerosi per il bilancio sociale, è una prospettiva di società in declino. Il problema è in quei paesi là, definisce miserabili, dove la Chiesa dire crescono solo miserabili, non è questione Chiesa o non Chiesa, è ovvio che la proliferazione la numerosità di figli per famiglia è da sempre una strumentalità collegata ai ceti più poveri, ma il dire questo è il disastro e quindi indicare la prospettiva in parole povere come positiva quella di chi arretra demograficamente. Mi pare una cosa che cronicamente non è che non sta in piedi oggi, non è mai stata in piedi. Noi siamo un continente avviato al declino nel mondo, non lo dico dal punto di vista militare o politico, al declino nel senso che cresciamo sempre meno anche per questo, abbiamo sempre meno risorse di energia anche per questo, perché ci siamo dati una prospettiva di autocancellazione demografica. È una questione lunga l'autocancellazione demografica, ma comunque la viene bloccata fino a questo momento. E allora nella storia umanità da sempre poi chi esplode tanti figli di poveri eccetera eccetera poi si riautoequilibra e diventa semplicemente l'espressione di un nuovo potere che arriva. Io non ci sono niente di male, è la storia dell'umanità. Se l'Europa, il mondo avanzato, è così convinto di non avere risorse, energie sul proprio futuro, sulle proprie capacità da autoestinguersi per vecchiaia senza figli, faccia pure, è già avvenuto più volte nella storia dell'umanità. Io però tifo per chi resta e si batte perché crede in se però, stesso. Però Oscar, ti vorrei, e vorrei te, il professor Sartori, vorrei che argomentaste su questo, la questione della diseguaglianza, della redistribuzione anche delle risorse, perché molti dicono fammi fare la mia obiezione prima, poi dici quello che vuoi. Allora, il 20% della popolazione consuma il 70% delle ricchezze del paese. No, allora voglio dire, ti cito quello che Massimo Mucchetti, una persona che stimi moltissimo, sì, è vero, ha scritto sul Corriere della Sera non più di tre giorni fa. Sento sempre. Va bene, ha scritto: ma che mondo è questo nostro nel quale la concentrazione della ricchezza è tale per cui i bonus della Goldman Sachs anno domini 2009 sono pari al reddito di 224 milioni delle persone più povere del mondo. Non fare così per sminuire. Ma no, perché è la scoperta dell'acqua calda. Ci si può interrogare a patto di essere, se col mestiere che facciamo, se sappiamo un pochino far di conto e abbiamo il giusto disprezzo di chi utilizza i numeri per fare propaganda e demagogia, dobbiamo ricordare a chi ci ascolta, a chi ci legge, a chi ci vede se siamo in televisione, che da sempre nelle fasi della storia mondiale o nella storia dei diversi paesi in cui si accentua la velocità di crescita in maniera divergente, cioè significa o tra due parti di un paese o in due parti diverse di un continente o tra parti diverse del mondo, in quella fase temporale come quella in cui stiamo vivendo, noi siamo con i piedi puntati, i paesi avanzati, invece i paesi emergenti fanno praticamente il ruolo di locomotiva della crescita mondiale, crescono molto loro, in quelle fasi temporali si accentua, poiché l'economia si apre come a fisarmonica, si accentua il tasso di divergenza tra chi ha di più e chi ha di meno, ma è perché irrompe nella storia una quantità elevatissima di persone che prima erano fuori dalla fisarmonica perché non avevano niente. Allora questo mondo, che è il mondo che naturalmente tutti i redistribuzionisti statalisti come il mio amico Mucchetti prendono queste cifre per dire è tutto sbagliato, ci deve pensare lo Stato a rendere meno grandi le divergenze, invece dimenticano di dire che in questo mondo la divergenza è maggiore perché c'è più gente a dividersi. Ma non so se la soluzione sia quella dello Stato, però professor Sartori, le piace questo argomento che poi è traducibile così: le risorse ci sarebbero per tutti, basterebbe redistribuirle più equamente. Appunto, lo Stato che sa meglio di noi. Ma che? Le risorse non ci sono per tutti. Quando fu scoperto il petrolio negli Stati Uniti sprizzava 20-30 metri sottoterra, ora si cerca 3-4 mila metri sotto il mare, quindi scherziamo, tutte le risorse che abbiamo sono finite perché il nostro è un pianeta finito e ci sono, dico, i fiumi che portano l'acqua all'India e alla Cina provengono dall'Himalaya, se l'Himalaya comincia a disgelare resteranno senza acqua, sì, già ora prelevano l'acqua dalle falde acquifere sotterranee che non si riproducono. Immaginarsi quando i ghiacciai dell'Himalaya cominceranno a non alimentare più i grandi fiumi asiatici. Qui la gente muore di sete non ci sono surrogati tecnologici per la sete. E soprattutto non è lo Stato, lei dice, come dice Oscar Giannino, che deve lo Stato in quanto entità statale, entità che deve redistribuire le risorse in maniera più equa. Però è una questione etica da porsi al di là della soluzione. La redistribuzione delle risorse nel senso che del denaro soprattutto, non del cibo, del denaro che serve a questo, il cibo fa parte del, sì, certo, è uno dei doveri dello Stato, esiste un filtro ed esiste un dovere morale, ma anche qui è sempre di la politica deve anche ridistribuire, la buona politica deve anche ridistribuire. ma questo non ha niente a che vedere oramai col problema dello sviluppo non sostenibile delle materie prime o non prime che esistono in tutto. Dice c'è poco da ridistribuire, insomma andiamo. Non c'è nulla da ridistribuire, tutto va a finire e nulla è rimpiazzabile. Salvo il sole, se fanno i pannelli solari sul avremo elettricità. Però sa, qualcuno dice che mi faccia finire, sì. Basta qualche terrorista con un apparecchio in mitraglia e distrugge tutte le risorse elettriche del continente. Non è la nostra corsa è folle e cieca, perché destina tutti alla catastrofe. Ricordiamoci che c'è anche l'innalzamento dei mari, vero? Non solo manca l'arco potabile, ma il mare si alza, il clima si altera, tutte queste. Noi non saremmo mai famosi 10 milioni, perché centinaia moriranno prima. Ora, francamente, io non mi sento di dire fate bene, crescete, moltiplicatevi. Io credo sia molto più cristiano e umano di dire state molto attenti a non moltiplicarvi perché non ce la fate. Allora, alle 8:47 minuti siamo qui a interrogarci sul futuro del pianeta Terra con il professor Giovanni Sartori, con il nostro Oscar Giannino. Sentirei Luigi da Roma che ci ha chiamato. Buongiorno Luigi. Buongiorno Milano. Dica. Io faccio una piccola digressione. Complimenti a tutti, a Giannino, perché ha avuto la forza e il coraggio di riflettere e di rivedere alcune sue concezioni politiche. Lo apprezzo tantissimo, perché è difficile oggi vedere gente che sa fare l'autocritica e dire però attaccare il governo. È stato veramente stupendo. A lei che fa è bravissimo, e Sartori, nel quale io condivido pienamente. Volevo dire una cosa, parlando dell'argomento di oggi. Sartori ha ragione, la Chiesa purtroppo non vede oltre alcune cose, dovrebbero occuparsi della gente, dei bambini che muoiono in Africa con le pance gonfie e le mosche all'occhio, dei bambini che vengono buttati di pestata, come ha detto Sartori, e poi vengono utilizzati dai pedofili, della gente che muore di fame, i bambini che muoiono di fame, questo è il problema. La Chiesa ha perso di vista la concezione veramente che Dio ha giudicato. Da ex salesiano devo spezzare una lancia a favore della Chiesa, poi Oscar Giannino su questo. La Chiesa siamo tutti, la Chiesa no, sono anche tutti. Chiesa, parlavo della Chiesa. Politica, no. No, lei dice la Chiesa ha perso di vista questa idea. La Chiesa lo fa di aiutare. La Chiesa ha perso di vista la realtà. Ha perso di vista la realtà. Perché dovrebbe aiutare quei bambini? Oscar, qua no, temo, rivolta contro no, la Chiesa sono tutti, sono anche quei missionari comboniani che vanno. La realtà della Chiesa che conosco io è più impegnata al sostegno dei poveri e anche delle parti del mondo in cui si concentrano i disastri che riguardano intere centinaia di migliaia di persone, come il Corno d'Africa e così via, cioè quelli che poi sono il più del ragionamento Chiesa, che dà argomenti al professor Chiesa, Sartori. Se ne occupa più dei laici in Italia, questo è quello che dico io. Invece l'argomento, la Chiesa non si occupa tanto del, in altre parole, sbaglia a dire no agli anticoncezionali. Sì. Ecco, quell'argomento a me un po' fa, e lo dico senza alcuna volontà di impropria polemica col professor Sartori, è una persona che stimo troppo per potermi permettere temi toni di mancato rispetto, però un po' mi fa sorridere, perché non dimentichiamoci, alla fine la Chiesa è convinta che il passaggio su questa terra sia un passaggio, diciamo, non centrale ai transitorio, fini. Transitorio. Visto che il destino di noi tutti per la Chiesa, per il passaggio di Cristo, è la vera vita è altrove. In definitiva, è per questo che dico, dovrebbe mettersi a dire attenzione, qui non credo proprio, cioè la Chiesa è coerente a un messaggio per il quale la vita vera è la vita eterna. E si possono anche accettare le idee che le risorse di un pianeta finiscono, si va in una catastrofe che rispetto alla storia della salvezza sarà un passaggio eliminabile, ma non lo dico in questo momento perché voglio questo dire. Però è interessante, professor Sartori, i preti interrogato fanno spallucce di fronte alle sofferenze dell'umanità, no, perché tanta parte di loro per fortuna neanche per idea. Senta, professore, lei si è mai interrogato, diciamo, ponendosi dal punto di vista del magistero della Chiesa, dice in fondo, come dice Oscar Giannino, per la Chiesa. La Chiesa ho scritto, quindi non mi ripeto, ha cominciato con l'enciclica Umane Vitae, preoccupandosi dell'Italia, perché ancora era una chiesetta, non era una chiesa globale, mondiale, quindi non ha mai considerato il problema nell'ottica con il quale l'ha considerato. Ci sono gli atti, la Chiesa naturalmente non è pubblica, ma insomma sono usciti, io li ho, che dicono che tutti i teologi interpellati allora dicono no, non c'è nessun fondamento in questa tesi che la vita umana comincia nell'embrione di mezzo millimetro, eccetera, eccetera. Sconsigliarono tutti il Papa di non fare l'umana vita. Quindi questo è stato proprio un peccato, diciamo, di provincialismo del Vaticano. Poi si è trovato, ha scoperto il mondo, si è trovato addosso il mondo, e allora invece di ripensare proprio al lavoro dei suoi esperti, dei suoi teologi, si è imputtata su questa questione perché la fa sembrare bella e brava, ma invece è una visione che farà morire miliardi di fame, di sete, miliardi di disgraziati. Sentirei Fabio dalla provincia di Imperia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Dunque, io vorrei dire alcune cose su questo. Io sono cattolico praticante, però vorrei affrontare il problema sotto profilo naturale, no? E mi dispiace che il professor Sartori non si renda conto di cose che sono alla luce del sole. E tutti i paesi occidentali, i paesi dove il controllo delle nascite è diventato ormai una cosa istituzionalizzata, sono in totale declino. C'è un sito della CIA, no? Studi strategici, che analizza, no, la capacità di rispondere di un paese, no, anche militarmente, sul suo tasso di natalità. Andate a vedere a che posto è l'Italia, è al terzultimo posto. Quindi la soluzione è, al contrario secondo lei, fare più figli. Ma certo, ma la crisi anche economica e tutta la crisi dell'Occidente, Europa, America e tutti i paesi industrializzati deriva dal fatto che ormai la vita è finita sotto le scarpe, cioè il concetto fondamentale di sviluppo dell'uomo deriva dalla crescita demografica, che poi è un concetto che sotto profilo naturale può essere accettato perché tutta la natura vive così, no? Ma anche unendo il naturale al religioso, no? Non c'è nessun contratto, cioè, tra le due cose. Ah, lei dice perfetto, contesta così questa cosa. Oscar, abbiamo 30 secondi, non saremo noi a fare gli indovini o a fare le previsioni, come si è detto all'inizio, le previsioni possono essere o giuste o azzeccate. No, io distingo nettamente, perché io ho fatto campagna per esempio sul referendum contro la legge 40, sono convinto anch'io che il fondamento, una chiesa che diventa biologista nel fondamento della difesa della sua vita, è una chiesa che non mi convince, punto numero uno. Però questo riguarda per esempio le ricerche sulle stelle staminali embrionali e così via. Altra cosa è attribuire, secondo me, la colpa soprattutto in aree del mondo in cui i cattolici sono minoranza assoluta, perché questo non dimentichiamocelo, certo. Dall'India alla Cina al Corno d'Africa e così, quindi anche questo mi sembra è un problema che non condivido. Io sono molto convinto che questi anni sono anni di accelerazione così globale dell'economia mondiale, siamo in una fase che cambia dalle fondamenta, la modernità è così, cioè io non credo che noi siamo consapevoli della portata delle proporzioni, del riequilibrio che è in corso nel mondo. E anch'io, come ascoltatore, penso che si autocondanna la demografia, è finito politicamente, economicamente, militarmente anche, quello che, cioè, mi preoccupa di meno. Limita, però siamo finiti. Noi stiamo vivendo una lunga pagina di Gibbon, capite? Un lungo declino di oramai una copia pallida dell'impero dei paesi avanzati a cui eravamo abituati, a considerarlo addirittura, capisci, insostituibile. L'America ha più risorse per riscommettere in questa battaglia, ma noi europei, tranne pochi, quelli dell'est Europa, che sono produttivi a più basso costo e fanno ancora figli, noi o cambiamo cosa oppure bisognerà, se nel nostro arco vitale, andarcene da un'altra parte. Saluto e ringrazio il professor Giovanni Sartori per essere stato con noi, grazie davvero, e il nostro Oscar Giannino, insomma, io mi immagino vi siate confrontati su un tema finalmente un po' alto, un po' diverso, spero piacevole. La discussione continua sul nostro sito Facebook 24 Mattino, basta diventarci amici, si sa. E guardo Oscar. Guarda, no, io poi mi sono appena sposato per farlo, un figlio, voi non me lo volete far fare qua, ma insomma. Ma insomma, infatti, io ne ho due, quindi posso parlare a buon titolo. Allora, grazie Alessandro Longoni in redazione, Elisabetta Fusconi e Peter Bescapè, il nostro alpino in regia. Lascio la linea e il microfono a Oscar Giannino. Noi ci troviamo domani, siamo in diretta, è domani 7:20.